100. Sì, ce l'ho qui a fare cunno. Cunno, sì, dove sei? A fare cunno. Chi è che c'è cunno? Sono a fare cunno, mi senti? A voi che ti intengo che sia malicondo. Niente baracchini, dai. Buonasera e buonasate. Tanti auguri a tutti, buongiorno. Dici che chi c'è a Baticunno, ha detto che. Ehi, ascolta, ma domani ci sei tu? Domani? Dove? È lì, in domo. Sì, domani sì, sì, sì. No, perché deve venire uno. Deve venire uno, cosa devi fare, l'amore? No, deve prendersi un richiamo. KK. Vabbè, non so l'orario però. Ehi, ah, comunque. Dai, ti chiamo quando sono il giorno allora, dai. Ciao che stanno a mangiare, ciao a tutti. Ciao, sì, buon pranzo, sono a casa, ciao. Avanti, Antonio. Signore di Baticunno. Di Baticunno. Dai sì, buon pranzo e buon tutto. Via, ciao ciao, altrettanto, ciao a tutti. Chi è la scimmia? Chi è, chi è? A ti piace l'agnello? A ti piace l'agnone? La Kenta, ti piace la Kenta fresco? Beh tu, mangiato vedi, noi abbiamo già mangiato. Ma ah, dai, buon pranzo a tutti, ce la risentiamo dopo, cambio! Ehi, ciao a tutti, ciao ciao! Ciao ciao, ci sentiamo! Bermi una cremettina di whisky, se non due bene mica, trova un salto qua, ce la beviamo assieme. E lui non si può uscire, no? dal 28 fino al 27 siamo in zona rossa, da lunedì siamo in zona arancione, si può uscire di nuovo. E vabbè, quando vuoi venire, mangiamo per te il panettone, che suire, una cremettina, sui caffetti faccio, non c'è problema. Se vuoi il vino c'è il vino, se vuoi spumante c'è spumante. Ehi, ehi, allora, adesso vediamo, settimana già ho voglia di uscire, adesso go dal 23 a casa, dal 23. Va bene, dai, che ora va a fare, ci sentiamo dopo ragazzi, statemi bene, ci sentiamo dopo, dai, ciao. Ehi, buon pranzo, saluto a tutti, ciao, avanti anche tu. Che cazzo, buon pranzo! E mi senti non è vischio pure in occhi, mi. Io non so, c'è neve, tu, sta nevicando in tutta la Sardegna. C'è la campera bloccata stamattina. Io sono in alto, sono qua in montagna, sta nevicando proprio. Il carbonate sta nevicando, non è bianca bianca, ma è, già si vede che è neve. Ah, carichi di bocchia, ma che ne bocchia vero, ma cosa abbia in culo, me sono a casa. A chi devi andare in giro e andare? Se non puoi uscire. Ma già! No, no! Ma vanno fuori strada, tanto vale! Sta a casa, stai, già fa bene! Ciao a dopo a tutti, ciao, buon pranzo! Pranzo! passare a togliere l'altro pezzo. Sono invischiando a fare. Cazzo di rumore, Binario 10, c'è qualcuno? Hola! Ecco Coca-Cola! E beh, un sciabucco! Poi un sciabucco! E beh, buon Natale! Finalmente ti sei sentito! Buon Natale anche a te! Mi stavo scendendo l'aria stasera! Un freddo cazzo che fura! Ha fatto appena di neve, ha fatto, si è poggiata nel vetro, ancora non si è sciolta. C'hai un'alternata da paura, c'hai Antonella. Un'alternata da paura. Ma come mai? E adesso? Adesso non più, ma ti si è abbassata la modulazione. Ce ne sei qualche cosa che... Ah, forse lo stereo, c'è lo stereo vicino. Può darsi che vuole staccata la spina, o no? No. E infatti... Che cazzo è questa cosa? No. Cazzo bip hanno messo. Come questo bip? Ha fatto l'aggiornamento di Midlax Vital, che quando premi che cambi canale si fa bip bip bip bip. Ma come sono qui entrato, ti indichi 4 qua, qua, qua, qua, per carità. Non ho aggiornato adesso, l'ho aggiornato io. Ogni tanto qualche cosa di nuovo mettono. Ma tu faccio una modulazione allucinante con quel telefono. Dice il detto mio, tu dici asciugare. Su coso sì. Quando metti l'amplificatore a manetta è allucinante, molto meglio del microfono normale, vedi. Ma è proprio lui il telefono che è micidiale. Capito? Ho proprio il telefono che è una cosa impressionante. Sì, io già lo so. Tanto ci entri tu lì. Ogni tanto, non è che lo uso sempre la verità. Pensavo se c'è qualcuno di nuovo. Cazzo è bastante. Perché cosa cazzo mi hanno messo di... cosa non ho capito. Allora, mi ha messo il segnale di divieto quando ho fatto l'aggiornamento. Perché il segnale di divieto, Antonè? Stavo infatti, aspetta il controllo. Che canale sei? Aspetta un attimo. Adesso esce, strano. Utente del gruppo, esce bene. Ah, ecco. Adesso è sparito. Ho scaricato tutti del gruppo quando era... Su 14 sono sempre io, comunque. In CH, naturalmente. Avanti. Chi è un voto buono? Chi è un voto buono? Chi è un voto buono? molto buono, Cicillo, molto buono. Chi tu due a Rubino? Io a te, sì, tu. A me la si tende, tu. Oi, oi, oi. A me, mo vuoi andare, mo chiappa. La fammi lento, la giù va, mi dà, mi sembra ma blu mandoro va. Mi pare che io mi pare ma blu mandone. No, quello è già aperto, ci sono le candite, a me non mi piace, se quello va passa solo sì, lo mangio molto volentieri, ma guarda c'è anche i canditi e non ho voglia di scegliere, capito, Bugannini. Se apre il pandoro vado sul sicuro. Cosa grazie bandoro, va. A me è piaciuto il panettone, la verità. Se quello al limoncino, se quello al limoncino ok, ma se quello al coso no, non mi piace. Ca! Lo stai chiamando Antu? Sono lì. Lei è altro Luca, ma mi stavi chiamando prima? Sì, ho detto cavolo, ho detto lui, stavo chiamando poi si è scomparso. Stavo dicendo che a me piace più il panettone. Sì, vabbè, anche a me, ma ci sono i canditi non mi piacciono. Tu va a passare, sì, ma i canditi no. E vabbè, mi ha aperto il bauli. E una crema di whisky. Se già mangio tutto. Una crema di whisky per digerire. Pare che non pongo in freco, gatto, l'ampulla. E da poi attacco. E io già fumante? Guarda. È buono, è quello Rocca dei Forti. Non so se Rocca Cannuccia. Ah, vedi come bello la crema di whisky, buona, eh? Fresca, fresca. Mamma mia, non mi va a vedere di queste cose. Perché ti piace? Sì, già mi piace, già, ma il problema è che me la bevo tutta. bisogna darci un taglio, eh. No, una e basta, quella tutta. Aspetta un attimo. Papà. Allora, come lo so, prova a dire, prova a dire. Avanti. Delle regolazioni con la Runis, guarda un po' come sta andando. Ora prova radio cuppa e cosa, com'è il livello microfonico qua? Non sono franco. Ah, ho capito, no? Non sono franco. Ma tu vuoi cosa? Tony, tu sei? Ehi. No, che prima c'era Claudio, ho detto come mi ascolti con questa radio? Tu vuoi, ma certo, cupo. Ah no, ma dico l'intensità microfonica, la cupo lo posso sollevare un pochettino. Tu vuoi l'ultima come radio? Ma c'era anche Claudio, o no? Io era acceso, sì, tutto. Sta facendo prove. Allora, aspetta, hai detto che era cupo. Vediamo un pochettino, guarda se è cambiato qualcosa. No. Vabbè, devo lasciarlo così, poi col tempo ne va a pensare di più, dai, perché basta toccarlo poco poco questa radio e poi cambia tutto. Guarda questa, meglio va. Tony, ma sto uscendo o no? Perché a me sembra che ho problemi. Già, sto uscendo. Ah no, perché non sentivo nessuno, ho detto, ma cazzo. Come sta andando? Questa va meglio però, mi dici. Ah, questa è la tua solita. Ok, non c'è problema. Vediamo se Claudio ha sistemato. Avanti Claudio. Allora riprendetela tu, Tony. Vabbè, cosa stai combinando? No, tutto il giorno in casa. Tanto. Piove, esce sole, Ma moriato. Mi sono fatto una bella pedichella, ragazzi. Ieri notte però ho dormito un po' male, io mi sono svegliato qua, perché già dormo malissimo, ieri notte ancora a bici, che ho dormito un'oretta, mi sono riposato un'oretta, sono andato a pranzo dai miei, da mio babbo, da mia sorella. Okay. Adesso sono a casa, ma dopo vediamo un po' cosa fare. Come controlli, non c'è nessuno, Cosa, tutto. Che tra l'altro puoi andare, tu adesso, se tu vuoi andare a casa di un amico o di un parente, una volta al giorno ci puoi andare e poi puoi rientrare. Se ti trovano, per dire, adesso, e dopo ti ritrovano che tu stai andando da un altro amico o parente, lì ti mettono una contravvenzione. Ma io sono andato alla 50, 24 notte, 25 sono tornato a casa, non mi ha fermato nessuno, non c'era nessuno, poi sono ritornato a mangiare il giorno 25, alla 50. E non mi ha fermato nessuno. L'importante è che tu torni nella tua residenza, è permesso farlo questo qui. C'è stata un po' di confusione perché io poi me la sono letta bene l'articolo di legge. Io, se volevo andare a casa di, ti posso dire, mia figlia, un esempio, a Porto Torres, vado a fare il cenone del 24 notte, il 25 voglio rientrare a casa mia e me lo permettevano. Cappa, quello lo so anch'io, infatti. L'ho fatto, c'è anche mia figlia, è mexicana, quindi tranquillo, sono andato lì, ho mangiato, sono coricato. Ma ho dormito così male, io sono dormito mio, per carità. Infatti quando sono entrato qui a casa, ho giocato mia medichella, lui. Adesso poi se non sei abituato a dormire, basta il cuscino, ti cambia tutta la notte. Ehi, cappa. Io secondo me ti sto arrivando, vabbè. Scusami, cosa hai detto tu lì? Secondo me ti sto arrivando. Sì, a voi, benissimo, radio perfetta. Ma è così molto eccessiva, No, io ti ascolto bene, perché cosa ti hanno detto? Troppo forte, ti sento male, abbassa, boh. No, io ti ascolto bene, almeno io ti sto ascoltando con una radio seria e con un altoparlante serio, vedo che va tutto bene. Luca, mi sento male, non è giusto, l'unico, Ma molte volte bisogna stare attenti con i baracchini, magari c'è un altoparlantino da niente, piccolino quello dell'apparato, che basta che alzi un po' troppo il volume e distorce, è già distorce di natura l'altoparlante, se poi gli metti un segnale appena alto va ancora di più in distorce. Io sto usando il Galaxy, e il cane super Siderica, Io da parte mia ti sento bene, ti ascolto bene, non vedo, grossi difetti non ne vedo distorsione. Dai, cappa. Quindi vabbè, infatti io ho fatto il paragone, ho detto, se volevo camminare piano mi prendevo una bicicletta, se mi sono preso un Ferrari perché dovevo camminare, cioè mi prendo un microfono come si vede e devo abbassare, cioè tanto va attacco un microfono normale. No, io ti ascolto bene, se poi vuoi indicazioni più precise attacco l'altro apparecchio che ci ho collegato gli strumenti, ma guardando a orecchio ti ascolto benissimo, non posso dire niente io. L'importante è quello, il segnale è relativo, ma che mi interessa più di tanto, l'importante è arrivare a Sassari. A Puglia, grazie. Per la posizione che sono, tu già l'hai visto dove abito. Ma io ti ho sempre preso bene, anche con la radiolina piccolina, c'ho una radiolina di quelle tascabili, tipo un pacchetto di sigarette, né in camera mia, né a letto, una notte, molte volte è capitato di accenderla, con l'antenino suo ti ho ascoltato anche con quella, magari ti stavi aiutando un pochettino, ma sentiti con una radiolina tascabile è già tanto. E tappa, quindi avrà anche un antenino piccolo. Scusami, cos'hai detto tu? Ho detto avrà anche un antenino piccolo. L'antenino sarà 15 cm, 20 cm, non di più. Pensa un po', non c'è nessuno, vabbè. No, ma c'è una ricetta, guarda, non voglio dire, queste radio di nuova generazione sono allucinanti, cioè una radio che fa ridere, se tu la vedi ti metti a ridere, piccolina quanto un cellulare, dai, un po' più spessa del cellulare, però di grandezza di un cellulare. Ho fatto le prove con l'antenna esterna, siccome mi ha comprato un adattatore tipo i Texun, però è un'altra marca, questo piccolino così, ma tu devi vedere come riceve questa cosa, è una cosa mai vista, non è mai, c'ha DSP, il sistema di cosa digitale per la soppressione dei disturbi, ma tu devi sentire cosa ti tira fuori questa radio, a cose allucinante. Cioè, la nuova generazione, e mi dà di questa, c'è una volta per carità, e non posso immaginare. No, ma quello che mi dà rabbia, io c'ho lì come il 7000, che la radio costava milioni, no? Non un giocattolo, c'ha una ingegnerizzazione spettacolare al tempo in cui l'hanno fatto, era uno dei migliori ricevitori in commercio, adesso vedi questo giocattolino e li fa 10-0 per certi versi, certi segnali li tira fuori, meglio del 7000, vabbè se poi metti il 7000 ai filtri e tutto quanto è un'altra cosa, però ho fatto prove con segnali molto lontani, a parità di antenna questo riusciva a tirare fuori discretamente meglio, di poco però un peluzzino meglio. Venga, a volte sono più selettivi questi apparati piccoli. C'è anche lo smicro praticamente. Non c'ha niente, ti sto dicendo, tu ci hai preso quelle radioline che ti portavi al mare per sentire i risultati, quelle piccoline piccoline, la grandezza di un cellulare, il doppio di spessore però è la grandezza di un cellulare, c'ha il display digitale, c'ha, lo smitter non ne ha, c'ha l'indicazione digitale dei decibel ricevuti, diciamo più professionale rispetto a uno smitter, ho fatto la prova anche in 27, cazzo, sono rimasto a bocca aperta, ho detto cavolo come riceve, ma segnali che non mi sarei mai immaginato, cose disturbate, cioè segnali da lontano, cose che senti, vabbè non capisci niente, ma con l'altro neanche li sentivo, con l'altro la radio. Praticamente la metà di un portatile, dai. Sì, hai presente quello che ti ho dato io, quel portatilino, metà di quello, metà di lunghezza e metà di spessore. Cappa, te lo volevo dire io in questo momento, cioè la metà di quello che tu metti a me, da Mintec, Endico 50S. La metà di quello, anche meno della metà. Sto dicendo, se l'ha presa mi Marco, come cavolo si chiama, Condor, lui si è preso la versione con le bande laterali, ma c'ha una ricezione da paura e poi costa niente, non costa nulla, c'ha la possibilità di mettere l'antenna esterna, c'ha gli accumulatori a litio tipo un cellulare e carichi con la sua presa USB, ti posso dire va benissimo, c'ha diverse bande, c'ha gli HF pure e funziona benissimo. E dove l'hai preso lui? Quanto l'ha pagato? Io l'ho pagato una sessantina di euro, neanche 60 euro, intorno ai 58, una cosa del genere, più l'espedizione. Quello di Marco l'ha preso in offerta, l'ha pagato 79, però c'ha le bande laterali, è uguale al mio, però con le bande laterali. E ti posso dire, c'ha una ricezione da paura, proprio perfetta, cioè molto selettivo, oltre che sensibile, molto selettivo. Se ci sono segnali che si sovrappongono, questo te li tira fuori. Quindi va fuori a tutto arrivare. Sì, l'ho fatto arrivare, non mi ricordo se l'ho preso da Amazon o qualcosa del genere, mi cercalo, X, come si chiama questo? La fa X-Data e poi la fa Radi Wow, si chiama questa radio, ma è uguale all'X-Data. ed è piccolina, cioè se tu la vedi, io l'ho presa perché ho letto le recensioni, ne hanno parlato benissimo di questa. Poi la notte, quando siccome dormo un poco, me la metto nel letto, mi accendo un pochettino a basso volume, così mi fa di nuovo rivenire il sonno. Ma c'è un sacco di cose, c'è la scansione, c'è l'orologio, il timer, vabbè, quelle sono fesserie, puoi impostare la frequenza perché c'è la tastierina, e c'ha due modi di cosa, ricerca più veloce o più lenta. La cosa che mi piace, c'è questo sistema anche che ti dà il segnale ricevuto in decibel, e poi c'è il rapporto segnale disturbo, c'ha due indicatori, bellino. Cosa stavi dicendo? Stavo controllando il microfono. Ciao Claudio. Oh. Se non rispondi, ti ho detto cosa stavi dicendo. E non ti ho risposto, ho detto che eri tutto a fischi poco fa, adesso va bene. Stavo preparando il microfono, c'era un po' contatto. No, adesso sta andando benissimo, c'è anche Tonino, avanti Tony per Claudio. Ehi capo, ciao Claudio. Come si chiama che me lo scrivo, così io cerco dopo, non me la guardo. Allora ti dico le lettere, scrivitelo in un pezzo di carta. Roma, Ancona, Domodossola, Italia, W, V, cioè 0, O30 W. Registrato, quindi, Radi Bob, praticamente. Il modello R108, cioè 500 memorie pure questo. E facciamo entrare il break, avanti il break. Ciao, ben sentito Claudio, ti rinnovo gli auguri anche se ce li siamo già fatti via cellulare, comunque va tutto bene per te e per la tua famiglia, ti rinnovo gli auguri. Ok, vai Tonino e poi Claudio per... Claudio, scusa, Claudio fai vero per Claudio D'Amuros e poi Tonino. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato, cordialità. Ok, niente dai, continuate, io sono qua che sto vedendo un microfono da adattare a questo pony, ma non ho altri connettori, dai, avanti. Oh Tonino, riprendi. Comunque auguri mio Ruben, ma auguri del giocatore, auguri anche Claudio di nuovo, che si è fatto tramite messaggio comunque, e anche te l'altro Claudio che è riuscito dove è tratto, e auguro anche a te. Bene, bene, comunque, modello R come Roma 108, giusto? Con la bicicletta! Bicicletta? Così è Roberto. Aspetta, stavo salutando da Luca, ciao Luca. Sì, Roma 108 il modello. È piccolino, mi c'ha una tastierina davanti. Cioè, se tu lo vedi in fotografia ti immagini chissà che cosa, invece è un giocattolino. Più ti danno in dotazione un'antenna filare, sarà 5 metri, 4 metri, e più le cuffiette ti danno. E il caricatore, vabbè, utilizzi quello del cellulare, ti danno il cavetto per ricaricarlo. Avanti Luca, ciao, ben entrato anche uno per te. Che anche Luca mi va a dire, entra, saluta, dice per il bello e poi fuggi. E beh Luca, auguri a tutti, dai, sono andato in camera a prendermi la roba per cambiarmi, che mi affreddi no, chi. Riprendete, dai, adesso qua nascosta, cioè roba riprende. Ehi, dai, ti rilancio a cosa, Claudio D'Amuro, avanti Claudio. Io sì, qua arrivo perfettamente bene Claudio. Sì, salutalo, ricambia lì, saluti, dai, poi vediamo un pochettino la situazione di quell'altra radio, se riusciamo a risolverla, dai. Vabbè, sì, ma dato subito al mazzone. C'è una redolina a mare. Ma è l'W, SW, MW, AIR. Ma AIR, ci siete anche gli aerei? Sì, c'ho le bande aeree, c'è FM, poi c'è scritto MW, SW, banda aerea, e c'è anche il coso, la, come si chiama? B, il CB, la banda degli 11 metri. 49, 98, 50 euro. Bellina, ha 6 bande, c'è 87, 108, 522, 1620, 150, 450, 1711, 30 MHz, e poi da 520 a 1710, e poi da 118 a 137, sarà quasi 0,30 questa cosa. E infatti l'altra cosa, 79, 98, che c'è anche le stesse in effetti. Bene, bene. E beh, Claudio, tutto a posto? Che radio è, Robert? Sì, ma a me piace Claudio, ormai si sta entrando nella cosa dei vintage, però possibilmente, se vi consiglio, tieniti da base Claudio, non veicolare, perché veicolare li trovi sempre, ci sono un po' da tutte le parti, ma se trovi qualche stazione base, ho visto, sto guardando su Radio Sul Plus, quello che vende tutta la oggettista, ci sono tre belle radio di coso, da base, ce n'è una a 60 euro nuove, non usate, funzionanti e garantite, ce ne sono due o tre di queste radio vecchie, ma belle veramente, una è 12 canali da base con l'altoparlante esterno 60 euro e l'altra 80 euro, guarda su Radio Sul Plus, poi stanno iniziando già a mettere cose più recenti, anni 80, dei ricevitori della Kenwood, della Iaeso, ho visto, altoparlanti esterni della Kenwood, a prezzi ragionevoli, dai. Robert, io sono qua, non sto riparando niente qua, sto solo mettendo il microfono a tavolo sul buoni. Mi sentite? Eia, cos'hai lui? Volevo sapere di quella radiolina che stavi parlando, ma non mandi il modello su WhatsApp. Eia, ti mando la fotografia direttamente, che c'è anche il modo, te la fotografo bene da vicino, è bellina, guarda, sono rimasto a bocca aperta, normalmente a me mi colpiscono questi giocattolini, però c'è una ricezione che è da spaventosa, per essere, c'è appena da dire che c'è il DSP, il sistema di soppressione digitale dei disturbi, però è allucinante quanto riceve bene. Se ti compri poi la... Non sei uscito. Sono uscito. Sono bloccato il colpo, tutto silenzio. Aspetta che qua c'è qualcosa facendo, ma già ho preso perché è uscita così. Adesso sto uscendo? Forse non ho premuto bene, perché ho visto una cosa in questo computer, in questa radio è uscita una informazione che non avevo mai visto, vabbè. Poi si parlate che adesso sta andando tutto bene. Adesso sì. Luca, capito hai? Luca, mi hai sentito? No, non sei uscito poco fa, ripeti. Probabilmente non ho premuto bene. Allora, per quel prezzo è regalata, nel senso c'ha prestazioni che hanno radio da molto molto superiori come costo. Poi se ti ordini la cosa, l'adattatore per attaccare il PL, perché c'ha un jack mono, il mini jack mono, l'uscita per l'antenna esterna, ti puoi mettere anche l'antenna di casa per collegarti. Ho fatto delle prove, è allucinante quanto riceve bene. Manda dai. Ti mando la fotografia sulla radio, poi l'adattatore te la mando dopo. Riprendi qua. Oh, Claudio, riprendi. Tony. Meglio. Claudio, è entrato poi. Ma chi Claudio è chi? Giorgito o Spaviero? No, Claudio di Muro. Ma sono non stessi uscendo. Infatti, tocchiamo, non risponde nessuno. Ma sto uscendo adesso. Ciao. Aspetta, mi stavo preoccupando da giù. Io non si compra niente. Purtroppo mi stavo ingrippando io, ma sto mandando lui la fotografia. Meglio, andare. Sono qua io sto andando col Boni, l'MBP5, se mi sentite chiudo il connettore, mi sentite bene? Gatta. Sì, si può attaccare, ma devi fare un lavoro alla paura, perché c'è il connettore, io non ho toccato il connettore originale, quindi c'è un connettore a 5 punte che ti fa impazzire. Ne ho comprato un altro. c'ho un MB5 che appunto non uso sul pace, l'ho messo lì, ma ti fa impazzire, ma ci sono tutto il giorno, non vergogno a dirtelo, mi fanno male anche gli occhi, finalmente ci sono riuscito, perché è una rottura di palle, comunque funziona bene. Spinge bene, ce l'ho a metà, il mio BP5 già sta andando bene, perché fischia, fa un sacco di casini, va. Ho dovuto fare un ponticello dalla massa al connettore del PTT perché altrimenti fischiava, un casino, vabbè, comunque, vai. Va bene così, lo lascio così, non lo tocco più, e si abbiglia in curva. Certi prezzi, cioè da questo qua costa 97 euro, poi c'è questo qua saranno 56, tutti i prezzi. No, costa meno di 50, con le spedizioni varie, poi se c'è Amazon Prime non le paghi neanche le spedizioni, sono pagate intorno ai 50 euro, mi Toni non l'ha vista, quanto l'hai vista Toni? 49 spiccioli, quasi 50, la prima è. Ma su eBay? Su Amazon. No, su eBay c'è, c'è 81, poi c'è 47 più 4, 51 euro, poi 60, cos'è, il cavo carica batterie, no? 88, 32 più 15 di spese, dalla Cina però. E cosa fa Roberto? La 27? Eia, fa tutto quanto, c'è un sacco di bande, quante ne ha? Te lo dico subito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bande, fa da 17 a 30 MHz per la banda, diciamo, degli 11 metri, scende anche un po' più giù, poi fa da 150 a 450, c'ha tutte anche le HF, c'ha, e più c'ha la banda aerea. Luca, se tu metti soltanto Radivox R108, cosa vuol dire 17, Robert, fammi capire. Cosa hai detto qua? Cosa vuol dire 17, fammi capire. 17, 11 metri. 17 sono le bande varche, non è una banda. Vabbè, io sto dando la frequenza, ho sbagliato dicendo da 17 MHz a 30 MHz. Quindi a 17 MHz non è un 0,30 innanzitutto, perché da 17 MHz è la banda varche sino ai 30, è intermedia, quindi non fa 0,30 continuo. No, non lo fa in continuo, c'ha le bande, c'ha dei selettori di banda, poi vuoi fare la banda aerea, schiacci bande e ti fa la banda aerea che va da tanto parte, da 118 a 137, poi vuoi ascoltare da 522 kHz a 1600, poi fa da 150 a 450 kHz e da 520 a 1700. Quindi da 500 praticamente fa le U e non fa le V. No, le U non ce li ha, le U e le V non ce li ha, c'ha solo la banda aerea. Roberto, se stai parlando di 520 MHz, ok, a 400 ci sono le V, quindi parte da 500 o praticamente va sotto? 500 kHz, no MHz. 500 kHz, ho capito, quindi per quel prezzo è una radiolina che non, praticamente non ha nessuna copertura, dove ascolti? A chi ascolti lì? Lì non c'è niente. A 17 sono bande varche, se non hai antenna esterna non intendi nulla, poi cos'è che ascolti? E 1600 non ascolti tu? 1600, 160 metri tu ascolti con quella radio, per ascoltare 160 metri ci vuole cazzo un'antenna lunga 80 metri, come fai ad ascoltare i 160 metri con quella radiolina? Con questa antenna? Non con quell'antenna, ti metti l'antenna esterna, c'è la possibilità, loro ti danno un'antenna a filare in dotazione, naturalmente è un giocattolo, non è una radio professionale. Poi c'è anche i 40 metri, mi sembra c'è anche i di cosa, aspetta, non me lo ricordo la frequenza. Lascia perdere, robe 40 metri, certo, sono sotto multipli. Per ascoltare i 160 metri ci vuole un'antenna da 80 metri, 80 metri lunga, filari da 80 metri, come fanno a darti in dotazione un'antenna del genere per ascoltare i 160 metri? Ma stai scherzando? Ci sono radioamatori che non li hanno a 160 metri, come me, come tanti, perché non hanno posto a mettere l'antenna e tu ci ascolti con quella radio a 50 euro e 160 metri. Ascolti la 27, la M, l'FM, le bande aeree che sono normali perché sono tutte via satellite e poi cosa ascolti? Claudio, ti sto dicendo, non è una scrittoria continua come può essere un ricevitore professionale. Questo ha le bande separate. Per ascoltare qualcosa già va più che bene. Ti posso dire, nella banda dei broadcasting, ascolta meglio di un bel di altre cose. La radio. Sì, ti ho capito, ma stiamo parlando sempre di roba spicciola, capito? No, non è una cosa dove puoi ascoltare cose serie. 160 metri vogliono antenne, poi 80 metri ci vogliono antenne, per tutto il resto ci vogliono antenne. Vabbè dai, vedete voi, buttate via i soldi, tanto non si viene a nulla, sono cose giocato. Avanti il muro, se riprendi. Professionali, però già ti diverti. Ti posso dire, ho ascoltato delle cose che con l'ICOM è difficoltoso in certi tipi di frequenze. Per l'antenna che ha, diciamo, dotazione va benissimo, va più che bene. Io ho pensato che l'ordine tramite carta di credito, vabbè. No, l'ho preso a coso io. Vabbè, sì, si può prendere anche col coso, con la PostPay, con la scheda PostPay, oppure non so se c'è qualcuno che te lo manda a contrassegno, non me lo ricordo sinceramente se l'ho pagata con la PostPay o come, forse con la PostPay di mio nipote. Sì, perché l'Amazon non ne manda a pagare il contrassegno assolutamente, soltanto carta di credito, o PostPay, o l'altro come si chiama, non mi ricordo. Vuole essere sicuri, capito? Sì, ma la PostPay, ma tu sei sicuro, se non ti arriva la merce ti restituiscono i soldi. Addirittura mia figlia è arrivata una merce difettata, ma un difetto microscopico, mi manco se vi dia, gli hanno restituito i soldi e gli hanno detto tieni tra la merce. Beh, sono onesti almeno, eh. Perché se poi vai a rispedire, a fare cosa hai di non riconveni, farti pagare le spese, cioè che tu ti devi, che si mettano in carico le spese di rientro. Beh, tu costate di più, e devono rispedirselo di nuovo. Oh, ma certo. Avanti, chiodo. No, da Amazon sono insicuro perché sono tutti i negozi censiti, non è come i beghi, che ti possono tirare fregature, magari è tutta una cosa fittizia che non esiste, è tutta su Amazon è molto molto più controllato, poi se non arriva la merce ti restituiscono i soldi. Bisogna stare attenti su AliExpress, anche se ti restituiscono i soldi. Io ho ordinato poco prima del coronavirus, durante il coronavirus a marzo, un orologio che mi interessava, un orologio particolare con delle funzioni particolari, doveva arrivare entro giugno, non è mai arrivata, però se voglio adesso, vabbè costava poco, se voglio mi restituiscono i soldi. Sto ancora aspettando, non si sa mai, perché quando arrivano alla Cina molte volte c'è la dogana, ci sono un sacco di porcherie per lo vedo e te lo tengono bloccato in magazzino. Se non arriva entro un paio di mesi, alla fine dico beh te ne diru, restituiscimi i soldi. Conosco gente addirittura che non è arrivato, gli hanno restituito i soldi, dopo un mese è arrivata la merce e si è tenuto la merce e i soldi. Scusate, sono al telefono, adesso subito. Luca ci sei ancora? Boh, Claudio Di Muro, svolta il mic. Più o meno la stessa cosa, Wish, come coso, ma guarda c'è, diciamo su subito, su Amazon, sugli animati mi ha trovato tutto, anche se devo dire un po' più caro rispetto ad altri siti, tipo Wish, AliExpress. Poi le scarpe, se compri le scarpe e abbigliamento vai su Zalando, di lì costa molto ma molto poco, la roba è molto sicura. Ci te li restituiscono i soldi, da quel punto di vista non ti devi preoccupare, il problema è la lungaggine, perché loro non hanno garanzie di tempi, perché se vai in dogana rimangono fermi e possono stare mesi, mesi buttati. Ti ripeto, io l'ho ordinato a marzo del 2020, siamo quasi a fine anno, non è ancora arrivato, c'è da dire che era in pieno coronavirus, la roba dalla Cina tardava, non stavano sperando più niente per questioni di virus, diciamo. Poi non so se arriverà, era un orologio speciale con delle funzioni speciali che mi interessava, invece nulla, mentre altre volte sono state ordinate le cose, sono arrivate sia su Wish che su AliExpress, su Amazon sei garantito che arriva esattamente nel giorno. A me è capitato di ordinarla oggi e domani mi è arrivata la merce. Arrivava a vedere di tutto, è tipo Amazon, uguale identico, forse anche per certi versi più grosso di Amazon cinese, però anche di lì il problema è la lungaggine, certi prodotti non te li mandano direttamente perché devono passare per dogana. Io ho trovato delle cose interessantissime ma a prezzi allucinanti Alibaba, però non ho ordinato perché c'è il problema della dogana, infatti dicono Italy no, dice i tempi sono lunghi, se per dire lo mandi negli Stati Uniti arriva in tempi brevi, se lo mandi in Italia, diciamo in Europa, a parte il Regno Unito, che il Regno Unito arriva anche in Germania, devi fare il doppio passaggio, perché infatti ho ordinato questo spinotto, è passato tramite la Germania e poi dalla Germania me l'hanno mandato in Italia, questo spinotto che è particolare con l'attacco PL259 e col jack mono da infilare, mini jack 3.5 da infilare con la radiolina. Alibaba forse, non so se, però è, non so se sia già arrivato, ma arriverà tra poco a livelli di Amazon come quantità di merce, è l'antagonista di Amazon cinese. il problema di questi cinesi, c'è sempre la dogana, perché sono paesi extracomunitari, la fottitura è quello lì, la dogana al 90% dei casi la paghi, no, non c'è niente da fare. Infatti io ho visto delle cose a prezzi da paura, dalle antenne trasmettitori, anche apparecchi diciamo radioamatoriali, di tutto, però cazzo, poi quando entri in dogana, in base alla fattura quanto è, 200 euro, 22% di IVA, e poi ci sono diritti doganali, non so quanto siano, vengono quantificati di volta in volta. Purtroppo quello lì, sino a quando non si fanno una sede in Europa, questi Alibaba è così. E, come si chiama? Per l'abbigliamento c'è Zalando, guarda un po' di lì se trovi qualcosa, se no sull'altro, come si chiama? Ne abbiamo prima, parlato prima di Amazon. Facciamo entrare a Tonino che è un po' in parcheggio, avanti Tonino, e poi Claudio Sparviero se c'è ancora. Ah, Tonino era al telefono. Claudio, ci sei tu, Claudio Torre di Controllo. Allora riprendi tu Claudio Lamuro, sono avanti a te il mic. No, non so la parola, Radio Sul Plus, guarda, o Sul Plus, detto come si dice. Ci sono delle cose veramente interessanti, io ho acquistato diverse cose, e anche ieri stavo parlando con Gianfranco, anche lui ha acquistato tanto. Guarda, se ti interessa c'è una radio HF, diciamo non proprio HF, però fa anche le bande radioamatoriali, ieri ha provato il 27, una radio spalleggiabile inglese da degli incursori, quelli che usa, ti posso dire che col suo microfono originale usciva più che bene, 25 watt di potenza, c'ha la possibilità di alimentarlo dall'esterno perché non ha l'alimentatore o con delle batterie ricaricabili in dotazione. Non so quanto la stia dando, ma sicuramente ha un prezzo molto ragionevole. Se ti piace il genere, la radio militare funziona anche qua in 27. Che è ritornato a Torino, tu riprendo io, avanti Tony. Guarda, ma il Consolato non appartiene alla Fayette, se non sbaglio. Non c'è, c'era Luca, non so se c'è ancora Luca, ci sei? Luda, ok, no, allora riprendo io. Stavo dicendo Claudio Di Muros, attenzione, lo smitter, più che lo smitter devi guardare se l'apparecchio sta ricevendo il segnale, per dire, fa la prova con dei segnali deboli, ci metti una radio vicino, commuti l'antenna e vedi se quel segnale debole lo prendi anche, cosa, no? Lo smitter sino a un certo punto conta, perché magari ti segna 9 e l'altro ti segna 9 e 20, però il segnale lo ricevi in ugual modo, perché ci sono degli smitter che vengono tarati con degli ingressi, delle tensioni d'ingresso molto più basse, per dire come 440 con 140, se ti guardi il service, il 140 è tarato con coso, bastano 150 microvolt per fare un S9, mentre 440 ce ne vogliono 300 per fare lo stesso segnale di S9, però il segnale ingresso è uguale, cioè se li fai a parità di segnale ingresso, tutti e due segnano lo stesso segnale. Le due cose importanti è che quel segnale vuol dire che ti arriva a 3, che sia effettivamente il segnale pulito, nel senso non sia troppo attenuato. break? Sì, registrato il break, ciao Antonio. No, ma se è presente, se il segnale lo ricevi anche a 3, diciamo, però lo ricevi bene e l'indicatore ti segna 3 anziché 9, la radio vuol dire che in ricezione sta funzionando, non è sorda. A quel punto può essere lo strumentino che si è rovinato, è una parte mobile lo strumento, per cui col tempo tende a rovinarsi. Anche è successo la stessa cosa a Danilo, qualcosa, infatti ne ho nato io di Smith, ne ho nato uno nuovo e è tornato tutto a posto per il Saturn Echo. Oppure può essere la resistenza variabile che regola lo Smith, che molte volte si incollano, perdono di valore col tempo. Bisogna o sostituirlo o provare a muoverla, gli spruzzi dello spray per i contatti che c'ha quei trimerini che sono le resistenze variabili, provare con quello, però bisogna sapere i valori di laboratorio. Si manda un segnale d'ingresso, ci vuole uno strumento per mandare un generatore di segnali e dopodiché fa le regolazioni, solo così te ne accorgi.